La rivoluzione copernicana, strettamente intesa, si basa parecchio sul vecchio sistema tolemaico. L'universo, così come è stato disegnato da Copernico, è un universo perfettamente sferico e dunque conchiuso. A questa sfericità del tutto dovrebbero dunque mirare anche quei corpi che in questo tutto sono compresi. Per fare un esempio, anche la Luna. È così che un fiero avversario di Galileo, tal Ludovico delle Colombe, nel suo discorso contro il moto della Terra, sostiene che sia pieno di vanità il dire che la Luna sia montuosa. E infatti, secondo lui, come ogni altro corpo del firmamento, la Luna è perfettamente sferica, e se noi la vediamo montuosa e vallonata è perché quei monti e quelle valli sì ci sono, ma coperti da una colata di chiarissimo cristallo trasparente. È un caso storico di geniale idiozia al servizio della Chiesa, peraltro, che non andrebbe dimenticato. Un altro fondamentale contributo scientifico all'imperialismo, chiamiamolo così, della sfericità è dato da Gustav Theodor Fechner, fisico, biologo e filosofo tedesco del secolo scorso. Di lui di solito si ricordano gli studi sull'ottica e quella fondazione della psicofisica in grazia della quale il suo nome è rimasto legato ad una legge da lui formulata, quella del rapporto matematico fra stimolo e intensità della percezione. Di Fechner si ricorda meno il fatto che tra il 1841 e il 1843 ebbe una grave malattia da cui sembra siano derivati alcuni comportamenti suoi perlomeno inconsueti. È così che forse si spiega l'esistenza nella sua bibliografia di un saggio pubblicato sotto falso nome dedicato all'anatomia comparata degli angeli. Nel cercare la cosa più ricca di vita esistente sulla Terra, Fechner trova l'occhio. E qui inizia la sua argomentazione. L'occhio umano, che è la cosa, ma l'occhio umano è sferico. Ed ecco che in cielo tutta la persona sarà anche sferica. I protozoi sarebbero sferici e ogni creatura terrestre comincia nella sua evoluzione da una sfera e per la precisione dall'uovo, che lungi dall'essere ovale, sarebbe sferico. Più gli animali sono inferiori e più hanno gambe, dice Fechner, e dunque ad ogni grado successivo che si avvicina agli angeli, ecco che va via un paio di gambe. Perfettamente rotondi, si muoverebbero come pianeti, comunicherebbero tra loro e tenterebbero di farlo con noi con lampi di luce colorate e avrebbero pelle delicatissima, finissima e trasparente, potendo anche contare sul senso della gravitazione universale, il sesto senso di cui gli umani debbono invece fare a meno. Un attento esame anatomico di queste bolle di sapone adattissime per le luminarie natalizie mostrerebbe infine che esse possono appartenere a due sessi. Quelle composte di puro ossigeno, ma guarda un po', sono maschi, e quelle meno pure, al vapore acqueo, sono femmine. La sfera, insomma, ha la forma giusta per suscitare le speculazioni più ardite e per riscuotere grandi successi. Non debbo meravigliarmi dunque se Raffaella Carrà, in Caramba che fortuna, attinge a piene mani ancora al quadro ideologico della sfera, che per lei innanzitutto è un eufemismo della palla. In analogia alla boccia di vetro dove il mago legge il futuro, Raffaella governa la sfera della fortuna e altre sferette minori dalla cui apertura vengono elargiti milioni a palate a coloro che hanno saputo crescere innanzitutto come cittadini modello da sabato sera televisivo, poi sufficientemente timorosi della propria autonomia di pensiero, poi ancora fideisticamente credenti nella dea bendata come unica risorsa da blandire e sedurre e infine gioiosamente in possesso di un biglietto della lotteria. L'idea dei numeri fortunati inseriti in sfere è ormai un motivo architettonico ricorrente dei penosi rituali associati all'ufficio della buona sorte. Un numero scritto su un pezzo di carta o su un cilindretto di legno come quelli della vecchia tombola di quando ero bambino sembra meno neutrale, meno asettico, meno risultato probabilistico di uno contenuto in un contenitore perfettamente rotondo. La cosa è rigorosamente coerente con le forme tramite le quali ci rappresentiamo i costituenti del mondo. Pianeti, atomi, corpuscoli vari dal cui scontro fortuito può dipendere una vita o una morte. Ad ogni sfera attribuiamo isolatezza e individualità. Giusto i valori che stanno alla base della disintegrazione sociale e delle sue funzionalissime versioni antiche o moderne del gioco del lotto. La Carrà ha appena elargito 89 milioni alla telefonata di turno. Le dice: ma non solo, ora ha la possibilità di vincere 1 miliardo. Sceglie la mano destra o la sinistra? E quella titubante: beh, la sinistra, la mano del cuore. Brava, le dice la Carrà, che condivide appieno il concetto che la sinistra altro non sia che la mano del cuore, ma la cassaforte del miliardo non si apre. Niente miliardo. È la soluzione matematica per tramutare la gioia di aver vinto 89 milioni nella disperata desolazione di aver perso 1 miliardo.